Sì, ottimo, ottimo parlare anche di queste cose. Allora, sto cercando di ripetere le questioni importanti della domanda di Marco. Allora, sono perfettamente d'accordo con Marco sul fatto che la problematica non nasca dalla seconda intifada, anche se comunque la seconda intifada, come effetto collaterale, ha comportato delle grandi problematiche. Per alcuni anni la strada che passa fuori dalla porta di Cremisano è stata l'unica strada di congiunzione, correggimi Andrea se sbaglio, tra Betlemme e Gerusalemme, o sbaglio? Per alcuni anni lo è stata, per cui potete immaginare il traffico e l'impossibilità di fare qualunque tipo di lavoro in queste condizioni. Per quanto riguarda invece la questione dei proventi, e aggiungo anche la questione etichettatura che Marco mi ha giustamente fatto notare prima, cioè noi usciamo questa sera avete qui delle etichette che sono denominate Holy Land, in questa fantomatica terra santa, non ben precisati i confini politici. Chiaramente è un'espressione molto usata e riconosciuta dai credenti, ma che ci consente anche di ovviare una serie di imbrogli. Primo, fra tutti, il fatto che se è possibile commercializzare un prodotto palestinese, specificando l'origine palestinese del prodotto stesso, questo non vale per il vino. È una scoperta abbastanza strana, però sapete che per produrre vino da esportazione, occorre essere un paese riconosciuto, un paese produttore riconosciuto dagli organismi internazionali del controllo della vite e del vino. La Palestina, avendo ben altri problemi, non ha mai fatto un processo di riconoscimento, non è riconosciuta come paese produttore, anche perché dovrebbe avviare queste pratiche semplicemente per noi. Siamo l'unica realtà in territorio palestinese, almeno quello riconosciuto a livello internazionale, che produce vino. Quindi la Palestina non è riconosciuta come paese produttore, noi non possiamo importare in Europa, ma neanche negli Stati Uniti o in Giappone o in qualunque altro sito, come made in Palestine. Non è possibile per il vino. Quindi, per gli altri paesi noi dobbiamo per forza di cose etichettare via Israele, cioè Cremisano, Betlemme, via Israele. È una cosa che, se volete, è opinabile, possiamo parlarne, però è una condizione che o si fa così o non si può fare. Dimentico qualcosa della tua. Ah, i proventi a chi vanno? La questione fondamentale. Questione fondamentale anche per noi. Che operiamo nel progetto, potete ben capire. Cioè, il progetto fortunatamente coinvolge operai cristiani e musulmani, coinvolge cooperanti e volontari cristiani e atei, quindi capire a chi vanno i frutti del nostro lavoro è fondamentale. Diciamo che sul progetto è specificato molto bene chi siano i beneficiari, quelli citati, cioè gli operai, che ammontano a circa 30 famiglie, quelle a cui danno lavoro. L'azienda dà lavoro e la loro retribuzione sarà monitorata in base ai risultati del progetto. Da benefici alla famiglia Sarras, arabi palestinesi, e da benefici a tutti i palestinesi che frequentano le scuole salesiane. Quantificare esattamente quanti soldi vengano ricavati e quanti soldi vanno alle scuole palestinesi, io lo pretenderei, è un tasto su cui vogliamo battere, proprio per correttezza attraverso nei confronti dei donatori, perché c'è chi compra una bottiglia e c'è chi invece dà una donazione più consistente. Quindi una rendicontazione dei benefici è imprescindibile. Dov'è il problema? Il problema sta nei rapporti tra Vaticano e Stato di Israele. Per cui una rendicontazione puntuale degli incassi, delle vendite, degli utili. Offrirebbe il fianco al famigerato fisco israeliano pronto ad esigere naturalmente tasse anche su chi investe queste risorse in servizi primari per la popolazione palestinese, come Cremisan. Quindi ci inseriamo in discorsi piuttosto ampi che saranno senz'altro affrontati con i salesiani, cioè la rendicontazione, l'oggettiva verifica di dove vadano i benefici economici della cosa, ma che purtroppo devono tener conto della situazione di equilibrio instabile dell'azienda e in generale delle attività produttive palestinesi. Diciamo, a livello di progetto prioritario era far nascere un vino, cioè far rinascere la produzione, adesso piano piano stiamo volendo poi proporre a donatori europei di sostenere questo progetto, stiamo mettendo a regime tutti questi vari aspetti. Però questo è un aspetto fondamentale su cui stiamo lavorando, la rendicontazione precisa dei benefici e dei beneficiari. Ecco, aggiungo solo che in Palestina la congregazione salesiana ha 5 case, Nazareth e Beit Gemal in Israele, poi Ratisbon, Betlemme e Cremisan tra Gerusalemme e Palestina. Quindi sono queste fondamentalmente le 5 case che possono, diciamo, funzionare anche da bacino ricettore di una parte degli utili del vino, e sono tutte opere che hanno ovviamente finalità sociali, soprattutto in campo educativo, così come è la missione salesiana, e quindi si parla di scuole professionali, c'è un seminario, il seminario di Ratisbon, e quindi è vero che di nuovo la complessità regna sovrana, ma non il caos, la complessità che con un po' di pazienza si può dipanare, quindi con molta tenacia. Questo è un lavoro che Andrea veramente sta facendo in maniera egregia e che sta portando avanti, cercando anche di intervenire in un contesto difficile da tutti i punti di vista, anche per le stesse dinamiche di una congregazione religiosa che ha i suoi tempi, ha le sue caratteristiche, chiaro che i suoi tempi di reazione agli stimoli socio-economici, però di fatto è titolare di un potenziale molto molto importante, molto molto prezioso per tutta la società palestinese, è una realtà unica che il VIS ha ritenuto opportuno di sostenere in questo sforzo. Quindi sicuramente il cammino, anche dal punto di vista della rendicontazione puntuale, deve andare avanti e dovrà diventare sempre più preciso, però possiamo essere certi che gli utili generati, e che sono anche abbastanza variabili, come dice lo stesso Andrea nel video, di anno in anno, a seconda sia del raccolto sia anche della presenza poi dei turisti, che ovviamente oscilla moltissimo a seconda del clima politico e delle crisi che si alternano, ecco, gli utili non escono dal cerchio della congregazione locale e delle 5 case salesiane in loco. Mi permetto, per approfondire questo discorso, di citare un vantaggio di operare con i salesiani. Lo cito io, che non sono salesiano, tanto meno religioso. Cioè, uno dei problemi dei progetti di cooperazione con questi luoghi è il fatto di essere, che si vogliono interventi temporanei. Per lunghi che siano gli interventi, hanno un inizio, una fine, che corrisponde alla fine dei finanziamenti, ragionando in termini molto concreti. Il fatto di lavorare con Cremisan e con i salesiani in generale ci permette di operare, di creare dei benefici che si sedimentano. Sono 125 anni che questa azienda c'è. Se domani non ci sono più io, non c'è più il VIS, ci sarà un altro enologo, ci sarà qualche altra organizzazione che porta avanti il progetto. Quindi i cambiamenti e le innovazioni che si riescono a introdurre vengono sedimentate e acquisite. E questo, quando si parla di cooperazione, non è poco, vi garantisco che non è poco. Essendo una realtà fortemente, fortemente connessa al territorio locale. Quindi questo è uno dei vantaggi di lavorare con i salesiani. Prego.